Ecco, adesso a voi, amici di Web Radio Luzzi, il secondo appuntamento con il nostro avvocato preferito, l'avvocato Popilia. Signor giudice, signori della corte, signor pubblico, oggi siamo qua per condannare un'indecenza psicologica, pedagogica e antropologica. Mica tanto, avvocato. Il suo assistito ha ucciso un suo collega di lavoro. Signor giudice, e mi meraviglio, ma lei lo sa chi è il mio assistito? E oggi è molto, e di colleghi veramente ne ha uccisi già 5. Avvocato, e lo dice così? E certo, perché prima c'era il momento, non gli passavano la palla. Oggi invece un omicidio è stato fatto con un ombrello e forse vuole pure di meno. Ma sembra omicidio, avvocato. Signor giudice, il mio rumeno ha ucciso Paramatti, uno che giocava con il cemento e le bretelle, una persona oscura che a Teletuscolo non ha riconosciuto la bravità del mio assistito e che soprattutto lo ha chiamato drogato. E signor giudice, diciamocelo, se noi condanniamo quest'uomo, che dire di questi che abbandonano i tupinari in autostrada, di questi che non ti danno la risposta al ristorante e tu ha prenotato, di questi che si mettono la coppola one sì e uno no, spiega giù foglio, di questi che starnutiscono, tignano la forfora e ti riempiono il piatto di Eternit, e soprattutto di questi che si comprano i CD originali. Avvocato, Paramatti non ha mai avuto contatti con Muto prima. Non lo so e non lo sapremo mai. Ma se Paramatti fosse in vita, secondo lei non lo perdonerebbe? Certo, altrimenti è morto un vesso. Signor giudice, di questo ne dovrà tenere conto. Ma che siamo noi per dire chi è Cobolli e chi è Gigli? Se per dire se è giusto tagliare le basette ai vecchi? Chi siamo noi per dire agli assessori ai bilanci di votare le delibere? Per dire chi è Alfonso e chi è un cattolico? Se è giusto fare gli esami alla prostata come Ferguson con gli assistenti? E soprattutto per dire quanti amanti deve avere un cinquantenne? Signor Giuse, signor avvocato, vi ricordo che siamo in un'aula di tribunale. Ha finito questo show! Ancora no, veramente! Ma voi ve lo ricordate, Kill Bill? La storia di quella mamma che deve riprendere la figlia e ammazza Mienzumun, cinese, giapponese e sciamane. Ecco, dimenticate, perché ho sbagliato esempio. Volevo dire tre uomini e una gamba, ma ormai accontentate di questo. Dunque, sicuro di un verdetto favorevole, e lo avremo questa volta, attendiamo con serenità un vostro giudizio. Va bene, allora, visto gli articoli 2, 3 e 4, 777, 89 e 03 e soprattutto visti gli articoli scritti dall'autore del testo, questo tribunale la condanna all'abbonamento a Calabria Ora. Ma come Calabria Ora? Zitto Mutu, che ti è andato pure bene. Il signor giudice non lo sa che voleva farti giocare con figli Maradona alla Luzzese. Applauso! Secondiamo Mutu. Sì. Almeno compro un giornale serio.